Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo con un gran pezzo musicale che sicuramente ricorderete. Dai, Goran Bregovic, l'avete riconosciuto, era Gas Gas, una delle canzoni sicuramente non delle più conosciute, ma molto conosciuta. E poi c'è da dire, ma chi non ha ballato sulla musica balcanica, sulle note delle canzoni, delle composizioni di Goran Bregovic? Beh, perché mandiamo in onda Goran Bregovic quest'oggi qui a Zibaldone? Perché come ogni ottobre è arrivato il tempo del premio Tenco, no? Che come sapete ogni anno si tiene proprio ad ottobre a Sanremo, e quindi tra poco, la prossima settimana, ci sarà il Tenco 2025, rassegna della canzone d'autore, dal 22 al 25 ottobre a Sanremo. Il titolo di questa rassegna, di questa edizione, è Con la memoria. E insomma, oggi vi spiegheremo un po', avremo con noi Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Tenco, per insomma, raccontarci che cosa ci sarà nel Tenco 2025. Ci sono come sempre tanti artisti, alcuni di questi premiati con il premio Tenco alla carriera, e l'artista internazionale premiato quest'anno è proprio Goran Bregovic, 75 anni compiuti da poco, insomma una figura mitica in tutti i sensi, compositore, insomma film

ascoltarci una canzone di Ricky Gianco, della sua tappa forse più politica, collaborazione con Gianfranco Manfredi, a cui tempo fa abbiamo dedicato una puntata proprio qui a Zibaldone, un brano bellissimo del 1978 che si intitola Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Eccola qua. Sto facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'ho, no, no. Circondato dai mass media sulla sedia io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Io c'ho profugo cileno a casa mia, è arrivato nel 73. E da allora lui non è più andato via, Antonietta fammi star da te. E passa un giorno, passa un mese, passa un anno, l'unità sconfiggerà il padrone. Ma Antonietta mi ha buttato per la strada, vuoi vedere che sono io il coglione? Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no. Vado a prendere un po' d'erba da un amico, ad Antonietta la regalerò. Io lo lascio chiuso in macchina un secondo per andare a bere un buon caffè. E quando esco mi ha spaccato il finestrino e un ragazzo sta saltando il muro. Come fai a mandare uno a San Vittore, poi finisce che gli fanno il culo. Si avvicina un tizio con cravatta e giacca, tira fuori il fatto un tesserino. E mi dice tu sei uno di sinistra, stai tranquillo, sono un celerino. Sono un pulotto, sì, ma son del sindacato, forza dimmi cosa ti hanno rubato. Io gli dico lascia perdere il compagno, è un problema troppo delicato. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno. Eccoci ora in collegamento telefonico con Sergio Sacchi, direttore artistico del Club Tenco di Sanremo. Sergio, bentornato innanzitutto a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati. Ascolta Sergio, quest'oggi puntata speciale di Zibaldone dedicata al Tenco 2025 che si terrà la prossima settimana al Teatro Ariston nelle serate, lo abbiamo già un po' spiegato ai nostri ascoltatori, il programma è molto complesso, ci sono tante location, tante attività durante 4 giorni, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre. E il titolo dell'edizione di quest'anno è Con la memoria. Perché il Tenco ha scelto questa tematica che è stata poi declinata, e lascio parlare te, lo spieghi tu ai nostri ascoltatori, in diverse diciamo direzioni. Certo, parte da un dato di fatto che la canzone è fondamentalmente lo sviluppo della memoria, o nella canzone intimista tende a riprendere certi ricordi o a proiettarli, trasformarli. Quella narrativa è solitamente la lavorazione di fatti vissuti o tramandati da storia. Quindi il punto di partenza è che la canzone è comunque uno sviluppo della memoria. Poi c'è un secondo momento contingente, che viviamo in un periodo in cui della memoria si fa sempre meno, è sempre più deficitaria, la memoria la si riscrive secondo i propri interessi, vengono certe esperienze vengono sorvolate, dimenticate, accantonate, e questo succede anche nella canzone. Anche la canzone, il mondo della canzone si accoda a tutto il resto. Il mondo della canzone non va più là di quello che è successo l'altro ieri, e di porre l'ultimo festival di Sanremo oppure il penultimo, ma ci si sposta poco da questi qua. E allora ecco che c'era una necessità assoluta di creare un'intera rassegna sulla memoria e vedere come le memorie in realtà sono varie. E di quali memorie, per esempio, stai parlando e come sono state declinate? Sono declinate in maniera interna o esterna, mi spiego. C'è la memoria della canzone, per esempio, ed ecco la presentazione di libri, alcuni libri sulla storia della canzone italiana o del Clavotenco, la masterclass dedicata a Lucio Dalla, e poi c'è la memoria del Tenco. La memoria del Tenco la rivedremo nella scenografia che quest'anno avrà le immagini dei due presidenti, Amilcare Rabalti e Sergio Staino, più quella di Luigi Tenco. Ma la memoria del Tenco partirà già subito mercoledì con lo spettacolo con l'orchestra sinfonica, tutta dedicata ai premi Tenco. Saranno due set, uno molto breve di Coscia, Gianni Coscia e Alessandro D'Alessandro, e poi quello dell'orchestra sinfonica con Arianna Antinori. Poi ci sono i premi Tenco, e ogni premio Tenco in realtà è riallacciabile a una memoria particolare. Ad esempio il premio Tenco per l'operatore culturale che va a Tito Schippa è... Tito Schippa è stato il primo, ma prima degli UV, a fare un'opera rock, e quindi è stato il primo al mondo a creare l'opera rock. Schippa è il traduttore, l'opera omnia di Bob Dylan. Schippa è colui che ha fatto il Don Pasquale, cioè una lettura del Don Pasquale di Donizetti in chiave pop e in dialetto romanesco. È stato anche a sua volta uno scopritore di talenti. L'Orfeo 9, c'erano i protagonisti, erano due emeriti sconosciuti, uno si chiamava Renato Zero e l'altro Loredana Bertè. L'arrangiatore era Bill Conti, allora sconosciuto, ma sarebbe diventato famosissimo nel giro di pochi anni con la colonna sonora di Rocky. E poi ci sono altri, tipo Bregovic è proprio la memoria di un popolo, che poi per di più spostandosi ed essendo dislocato in mezza Europa, è una memoria andante, camminante, che va dalla Turchia alla Polonia, quindi una parte notevole di cose. A questo proposito, infatti, Sergio, poi ci sono i premi Tenco, diciamo, italiani, oltre a Bregovic, oltre all'operatore culturale Tito Schippa, di cui per esempio ci siamo appena ascoltati alcuni brani, come Ricky Gianco o Daniele Silvestri, ma anche Tosca e Baustelle. Parliamo di artisti diversi e di generazioni anche diverse. Certo, difatti. Ricky Gianco è la memoria, è un monumento alla memoria lui stesso, uno che è partito con il Club di Celentano negli anni 50, ce lo siamo ritrovati, creatore di supergruppi, autore di canzoni nel periodo beat come Pietre o Il Vento dell'Est, e poi è diventato un cantautore molto impegnato in collaborazione con Gianfranco Manfredi, è stato uno delle figure di punta dell'Ultima Spiaggia di Nanni Ricordi. La memoria di Silvestri è proprio collegata alla sua opera, ha un tipico modo di fare memoria Silvestri. Da una parte, non so, ricreando, parlando di Che Guevara o dell'imperatore Tiberio, in altre circostanze con dei piccoli flash trasforma piccoli episodi, minuti episodi, in ricordi a volte folgoranti. Ad esempio la luce dell'Y10 che gli provoca quasi un infarto, ecco, che ti rimanda alla mente la carta Visa che viene trasformata come arma. Ecco, è un modo singolare di usare la memoria, quello di Silvestri. Poi abbiamo i Baustelle e Tosca, no? Dicevamo. Baustelle, Tosca è la memoria geografica. Tosca è l'unica, tutto sommato. C'è anche un po' Ginevra Di Marco con lei, che ha soprattutto sempre presente la musica del Sud America, musica che è stata molto di moda negli anni 50 e 60, perché è legata soprattutto al ballo. Negli anni 70 abbiamo scoperto anche i poeti e la musica folcloristica, e poi è completamente scomparsa. E invece, seguendo l'insegnamento di Sergio Bardotti, Tosca ha sempre tenuto viva questa attenzione su quel continente. L'anno scorso Teresa Parodi in realtà è venuta grazie a lei. Poi i Baustelle invece sono la memoria più recente, stanno già negli ultimi 20 anni. La memoria si trasforma, sì. Loro sono l'esempio. Sì, andiamo ad ascoltarci, visto che ne parlavi, proprio Tito Schippo Junior, no? Che magari a molti ascoltatori non è così noto, non ricordano i suoi brani. Andiamo ad ascoltarci un brano importante, che è Combat, era il 1970. Sì, un brano che gli è costato un ostracismo da parte della RAI. Uomo che per l'oro del tuo regno offendi col tuo legno e fiero vai di te che dato in schiavo alla tua legge, non hai chi ti protegge, dai la colpa a me. Preparati a servire una parola che di tutti è che una sola, costituente della libertà. Colpati con me che vuoi punire, o preparati a morire, perché sei come me, sei una parte di me. Con me ti annullerò. Dall'alto di un altare pretendi di insegnare una preghiera a me che per baciare il pugno a Dio non ho più detto io, facendo anche per te. Preparati all'avvento di un'aurora che per una volta ancora vedrà Dio nel cuore. Confessati e se vuoi resuscitare, vai, preparati a morire, perché sei come me, sei una parte di me. Con me ti annullerò. Uomo che dal fondo di uno specchio ogni attimo più vecchio vuoi sembrare me, quel me che a forza d'essere ingannato non è nemmeno nato e incinto va di sé. preparati al Natale d'una vita che alla luce partorita sperderai i riverberi. Riflesso nato solo per mentire, vai preparati a morire, perché sei come me, sei una parte di me. Con me bacia o pace e m'offri la tua pace, in cambio tieni un no. Quel no che è il segno più umiliante del vuoto tra la gente, che anche il mio lo so. Preparati all'abbraccio più violento, come solo il fuoco e il vento san baciarti. Sarò dal mio oppressore, tu saprai cos'è l'amore, perché l'amore in me è una parte di me. Con me risorgerà. Questo era Tito Schipa Junior, Combà. Sergio, tanti sono gli ospiti, tanti sono i temi, impossibile ovviamente ridurre, cioè spiegare tutto, no? in poco tempo, e invitiamo gli ascoltatori ad andare a cercarsi il programma sui social del Tenco, sulla pagina del Club Tenco di Sanremo. Però c'è un altro filo rosso che si collega ovviamente alla tematica della memoria di cui parlavamo poc'anzi, che è fondamentale direi in questa edizione del Tenco, che è un filo rosso, diciamo, che collega, se così vogliamo, a distanza la resistenza, visto che siamo in un anniversario importante quest'anno, in questo 2025, l'ottantesimo della resistenza, della guerra di liberazione dal nazifascismo 1945 in Italia, e quello che sta succedendo in questi mesi, in questi anni a Gaza e la Palestina. Sì, beh, quello della resistenza era obbligatorio, perché siamo, quest'anno cade l'ottantesimo dell'evento, quindi a memoria, e anche qui siamo in una memoria che viene spesso non soltanto dimenticata, ma volentieri rimossa. Abbiamo avuto esempi proprio in questi giorni, un ministro della Repubblica, quindi invece è importantissimo tenerlo vivo. È tanto importante che per l'occasione abbiamo chiesto a un gruppo, la Scraps Orchestra, di fare una suite apposita per lo spettacolo. Quindi la presenza della Scraps Orchestra sarà totalmente dedicata alla resistenza, con una suite. Suoneranno per 15-20 minuti ininterrottamente, legando un brano all'altro. E invece sulla Palestina, la Palestina è un filo rosso, no, di questa edizione, perché ci sono varie iniziative, dal premio Yurum, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa anche qui a Zibaldone, la mostra di Gianluca Costantini sui giornalisti uccisi a Gaza in questi anni, ma ci sono anche tanti altri eventi. La centralità della causa palestinese e diciamo di quello che sta succedendo a Gaza, al di là degli ultimi avvenimenti che sembrano insomma far guardare con un po' più di speranza il futuro, ma con tutti i punti interrogativi del caso, insomma la Palestina è al centro di questo Tenco. È al centro, in realtà, quando nell'ottobre dell'anno scorso è cominciato a balenare l'idea della memoria, è chiaro che un appuntamento ineludibile mi sembrava quello della Shoah. Esiste lo Shoah. Ma poi, pensandoci bene, in quell'area c'è una futura memoria, per forza, che è quello del dramma della Palestina. E quindi ci si butta soprattutto su questo tema, che ha preso non soltanto tutta una serie di gli avvenimenti che ci saranno nelle serate, nei pomeriggi al Tenco, ma addirittura nel Cantautore, il giornale che noi pubblichiamo tutti gli anni, ci danno la collaborazione personaggi come LK, come Gianni Cuperlo, Tommaso Montanari, quindi anche persone di grande prestigio che hanno scritto proprio per noi. Poi c'è il premio Iorum, di cui mi dici hai già parlato la settimana scorsa. Sì, ricordiamo agli ascoltatori che è consegnato postumo e in memoria alla memoria poeta, certo, e scrittore palestinese Refat Al-Harer, no? E questo è un punto importante, e tra l'altro ci sarà anche il gruppo Iorum, che è una memoria viva, no? Non solo della musica, diciamo, tra il folk e il rock anatolico, ma della lotta per la libertà e la democrazia in Turchia da ormai 40 anni, con diciamo delle vicende drammatiche che riguardano alcuni dei suoi membri che sono morti dopo lunghissimi scioperi della fame nel 2020, dopo essere stati repressi, censurati e incarcerati da governo di Erdogan. Quindi diciamo anche qui torna la Palestina. Il premio Iorum nasce proprio da questi fatti di cronaca di cui hai appena parlato, del resto. Poi c'è un altro personaggio che è una presenza interessante, ecco, quella di Monio Vadia. Ecco, Monio Vadia, che ha passato la vita a raccontare la cultura ebraica nell'Europa dell'Est, quest'anno verrà al Tenco per cantare la Palestina, esclusivamente la Palestina. E questo mi sembra abbastanza significativo. Si presenterà in trio con Michele Gazic e Giovanna Famulari. Ed è una cosa abbastanza curiosa e nuova. Il primo, dopo alcune presenze di cantanti palestinesi al nostro interno, Ayam Ahmad e la Murkus, abbiamo un cantante ebreo, che viene a cantarci proprio la Palestina, perché dopo Gaza non si può più stare zitti. Sì. Ascolta Sergio, tantissime sono le cose, dicevo prima che è impossibile ricordarle e spiegarle tutte, però un'ultima domanda te volevo fare, perché si collega anche con la resistenza, con la memoria, con la storia, su un evento all'interno della programmazione del Tenco di quest'anno che è molto particolare, che riguarda gli alpini. Sì, che riguarda in realtà la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale ha scatenato due cose: una, la caduta dell'impero asburgico con una frantumazione geografica, e l'altra in Italia l'epopea della Grande Guerra che ci viene narrata in canzone dagli alpini. Ora, hanno un valore storico questi canti degli alpini, un valore letterario. Si può parlare della prima canzone popolare in lingua italiana soltanto con gli alpini, altrimenti la canzone popolare viene sempre parcellizzata, regionalizzata, e anzi all'interno di ogni regione è possibile trovare varie isole etniche, mentre col canto degli alpini per la prima volta assistiamo a una canzone popolare in lingua italiana. Non soltanto, ma creiamo anche la prima polifonia non religiosa, la prima polifonia laica che esiste in Italia proprio grazie agli alpini. Quindi faremo questo spettacolo, incontro, spettacolo, chiacchierata il sabato pomeriggio, e abbiamo invitato l'esperto più conosciuto, almeno televisivamente più conosciuto, che è il professor Marco Mondini, che è storico militare specializzato proprio nella Prima Guerra Mondiale e specializzato nella storia degli alpini. Sarà una bella chiacchierata con ascolto di canzoni, e cosa assolutamente imprevedibile per il Tenco, ci sarà anche la presenza di un coro alpino. Eh sì, molto, molto particolare, davvero. Sergio, grazie per essere stato con noi, per averci illuminato, no? E spiegato un po' le tante attività del Tenco 2025, e ti aspettiamo presto qui a Zibaldone. Va bene, buongiorno a tutti voi, grazie. Yaşamak ne ki ölümüne, kavga bitmez öldüğünde. Tanık olduk yiğitlerin ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne. Tanık olduk yiğitlerin ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne, ölürken güldüğüne. Su bendini yürü yolunda, özgürlük senin kanında. Az olan yürümektir, ışık varsa sonunda. Yollar ölmeye değer, zafer varsa sonunda. Az olan yürümektir, ışık varsa sonunda. Yollar ölmeye değer, zafer varsa sonunda. Allora, sono il gruppo Rumo, Lunde Ote Nevar. Questo è uno dei brani insomma storici della band. Uscì nella prima versione nei primi anni 90. Insomma, avere il gruppo Rumo a Sanremo, devo dire la verità che sarà qualcosa di emozionante, tenendo conto della storia di questa storica band turca, delle vicende drammatiche che alcuni dei suoi membri hanno vissuto e stanno ancora vivendo, perché molti sono incarcerati in Turchia. E la band si è riformata in Germania con alcuni membri che sono riusciti a andarsene via dalla Turchia prima di essere incarcerati da Erdogan dopo il 2016, e da nuovi membri residenti in Germania e in giro per l'Europa. Quindi insomma è importante che questa testimonianza ci sia. E per quanto riguarda la Palestina, prima con Sergio Sacchi ricordavamo varie attività di uno di questi, la Palestina, uno di questi fil rouge del Tenco 25, quindi la presenza di Moni Ovadia sul palco dell'Ariston, la mostra di Gianluca Costantini, che la settimana scorsa abbiamo avuto ospite qui a Zibaldone, e poi ci sarà anche un film, Afidai Film, di Kamal Al-Jafari, che è un documentario che è passato anche dal Festival del Cinema di Torino e che racconta la realtà della Palestina, e è un film che merita di essere visto. Tanti sono gli artisti, l'avete capito, a Sanremo. Abbiamo nominato i Premi Tenco, ci siamo già ascoltati alcuni brani di Daniele Silvestri, di Goran Bregovic, di Ricky Gianco, di Tito Schipa Junior, che è un premio Tenco in questo caso all'operatore culturale, non alla carriera. Tra i premi Tenco alla carriera c'è anche una bravissima cantautrice, interprete italiana, che è Tosca, Tiziana Donati. Andiamo a ascoltarci un brano, Joao, che mostra appunto questa sua capacità della memoria, no? La memoria geografica, diceva Sergio Sacchi. È tratto da Morabeza, che è il suo album premiatissimo di ormai direi 5 anni fa. Questo brano si intitola Joao, è accompagnata da Arnaldo Antunes. São tantos e tão poucos têm noção de como se inaugura uma nação. Não é bem com monumentos ou com balas de canhão. É quando uma brisa bate na respiração e entra no juízo de um João. Chiede ti a todo impegno, io muro seu engenho para arejar os cantos da canção e dar sentido a nossa sensação. Milhares de partículas no ar reviravoltam numa vibração para nos dar sua bênção, para nos tirar do chão. Se a rotação da terra fosse então essa voz e esse violão, quando uma só pessoa o silêncio aperfeiçoa, toda a multidão escuta o coração e se torna civilização. E beh, che bella questa canzone, Joao, Tosca e Arnaldo Antunes, è bellissima la voce di Tosca. Se non l'avete ancora sentito, ascoltatevelo, Morabeza, perché è un disco davvero bello, davvero bello. E insomma, non potevamo lasciare fuori l'ultimo premio Tenco alla carriera, che è anche, diciamo, sono anche i più giovani, no? Dopo Ricky Gianco, dopo Goran Bregovic, no? Un po' più e un po' meno di 80 anni, Silvestri, Tosca, e poi appunto i Baustelle, che è una band ormai con una storia trentennale. Loro si sono formati nella seconda metà degli anni 90, nel 96 esattamente, a Montepulciano in Toscana, il primo album nel 2000, quindi insomma rappresentano molto bene musicalmente, artisticamente questi primi 25 anni, questo primo quarto del nuovo millennio. Sussidiario illustrato della giovinezza fu il loro primo album, proprio uscito nel 2000, e l'ultimo, il decimo, è uscito proprio quest'anno, nella primavera del 2025, Il Galactico. Noi ci andiamo ad ascoltare una canzone da forse il loro album, non il più premiato, ma quello che gli diede il successo, no? Il terzo, 2005, La Malavita, una canzone molto bella che si intitola La Guerra è Finita. Loro sono i Baustelle. La guerra è finita, Baustelle, premio Tenco anche loro in questo 2025, ma poi ci sono tanti altri artisti che saliranno sul palco dell'Arison, che faranno anche tante altre cose in altri spazi a Sanremo tra il 22 e il 25 ottobre. Insomma, sull'Arison per esempio ci sarà, e non potrebbe mancare in un'edizione intitolata con la memoria, un artista come Simone Cristicchi, che sarà accompagnato dagli New Quartet, ma poi ci sarà anche ad esempio Paolo Angeli, che abbiamo avuto ospite in primavera a Zibaldone, ci aveva presentato il suo nuovo disco Lema, questo straordinario compositore, musicista, cantautore sardo, con la sua chitarra preparata sarda, unica, ne ha una solo lui, e l'altra c'era Pat Mitini che gliela chiese e che la utilizzò spesso qualche anno fa, no? Addirittura anche nella tournée di Orchestrion. Paolo Angeli interpreterà la poesia più conosciuta del premio Yorum di quest'anno, ossia il poeta palestinese Refat Al-Harer, If I Must Die, se dovessi morire, la canterà in gallurese. Ma poi ci saranno anche artisti più giovani come Emma Nolde o come L'Amante, e quindi insomma un'edizione veramente ricca. E poi ovviamente ci sono le Targhe Tenco che si conoscono già dall'inizio di luglio e che sono assegnate ogni anno in 6 diverse categorie da un'ampia giuria di giornalisti, operatori del settore musicale. Ecco, quest'anno per esempio tra le Targhe Tenco, attesissimo, c'è Lucio Corsi, che ne ha vinte addirittura due, quella al miglior album e alla miglior canzone. C'è poi La Nigna, anche lei molto brava, con un disco che è stato molto apprezzato, o Anna Castiglia con il miglior disco d'esordio, no? L'album d'esordio. Ma poi c'è anche Caroline Pagani con per la Targa Tenco l'album a progetto, con brani di suo fratello Herbert Pagani. E poi c'è ancora Ginevra Di Marco, no? Quindi insomma, dei nomi veramente importanti anche per le Targhe Tenco, e tutti, per quanto piuttosto giovani, la maggior parte già molto, molto affermati. A questo punto andiamo a ascoltarci una canzone della Nigna, di questo suo album apprezzatissimo e appunto premiato con una Targa Tenco. Il titolo della canzone è Figlia da Tempesta, lei è la Nigna. Perché son nata, c'è sta chi mi può prendere, chi mi può insurata. So figlia da tempesta e non mi può incatenà. Facita ma passa, facita ma passa. Nuvanta fa paura, 38 è mazzata. A botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì. Chi non voleva sentire, mo è ricchiata rapida. Paure niente, paure niente, paure niente, paure niente, paure niente, paure niente, paure niente. E lei è la Nigna, un'artista da seguire, davvero sta facendo delle belle cose. E di Lucio Corsi ci ascolteremo un brano adesso, prima di salutarci, anzi dopo esserci salutati, proprio per chiudere la puntata, perché vedo che il tempo è tiranno e sta scorrendo velocissimo, però volevo aggiungere un'altra cosa su questo Tenco 2025 con la memoria, che ricordo si terrà a Sanremo la prossima settimana, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre. Ci sono poi, appunto, Sergio Sacchi lo diceva, altri eventi paralleli, la masterclass su Lucio Dalla, c'è il film, appunto, di Daniele Silvestri, eccolo qua, Fabi e Gazzè, Un passo alla volta, che sarà appunto proiettato all'Ariston. Ci sono presentazioni di libri, molti, sulla storia della canzone, ma poi ci sono anche una serie di concerti alla Pigna, nella parte vecchia di Sanremo, con ingresso gratuito, che sono in genere, tra l'altro, partecipatissimi e molto belli. E ci sono quattro concerti, quindi uno per sera. Una sera ci sarà Stefano Tessadri, che diciamo dedica tutto il concerto a Pierpaolo Pasolini, un altro tassello importante di questo mosaico della memoria che ha voluto costruire il Tenco. Poi ci saranno Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino, per ricordare Sergio Staino, scomparso purtroppo qualche anno fa, che è stato, tra le tante cose, anche presidente del Club Tenco nei suoi ultimi anni. Poi ci saranno David Riondino e Sara Jane Ceccarelli, e poi ci sarà Massimo Priviero e Omar Pedrini, ecco, un concerto in questo caso dedicato alla storia del rock. Quindi, insomma, come potete vedere, il programma è veramente ricchissimo, è quasi impossibile cercare di spiegarlo. Si tratta di andare a Sanremo per chi può e seguire questa edizione, godersela questa edizione del Tenco 2025. E noi ci salutiamo con Lucio Corsi, l'ho già annunciato, no? Due targhe Tenco, quest'anno poi, insomma, il successo, per quanto non abbia vinto secondo posto a Sanremo, poi l'Eurovision Song Contest, concerti dovunque, amatissimo, ha già quattro album all'attivo, quest'ultimo, appunto, Volevo essere un duro, è uscito nel 2025. Noi ci andiamo ad ascoltare una canzone che si intitola Sigarette, secondo me una canzone molto bella di questo album, che è davvero, insomma, Lucio Corsi si merita il successo che sta avendo. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come sempre dalle 17 alle 18 qui su Radio Contrabbanda, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, a colocaros que es viernes por la noche. Sigarette, Lucio Corsi. Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette. C'è chi smette, c'è chi smette, personalmente fumerò per sempre. Sigarette, sigarette, sono un rifugio se c'è troppa gente. Fanno male ai dottori, solamente a chi si ferma alle avvertenze, alle apparenze. Così non corro il rischio di diventare vecchio, mi fermo prima che sia inverno. Ne ho accese più delle stelle, per stare soli servono carezze, per stare insieme ad una donna quanto tempo serve. Io son geloso del mio tempo perso e dell'amara leggerezza nel dolcissimo far niente. Sigarette, sigarette, tra un gatto e un cane è meglio un pappagallo verde. Tra i monti e il mare meglio una casa di campagna, con le finestre chiuse e il fumo di Manhattan che serve a non scoprire se in questa stanza son rimasto solo o c'è ancora Ines. Dentro al cuore non ho niente, ma non riesco a dirle la parola fine. non corro il rischio di diventar vecchio. Non lascio figli ma un posto libero in più in un parcheggio, che è sempre meglio di niente. Per stare soli servono carezze. Per tramontare in mare quanta luce serve. Io son geloso anche del buio che mi è entrato nella testa. Non basta un soffio per liberar la mente. Sigarette, sigarette, sigarette, sigarette, sigarette, sigarette, sigarette.